PMR all'ascolto, cambio. Canale 7 PMR, chi è all'ascolto, cambio. Canale 7 PMR all'ascolto, cambio. Luca! Giomari! Chi è? Beh, Giomari, come va? Marco, parla mobile. Va, buonasera. Piatto che si sente. Io un po' mi sto dedicando un po' alla radio, Giomari. Sono a Porto Torres, come mi senti? Sempre a casa tua, va benissimo. Ehi, anche tu ultimamente, radio buona. Ben sentito dopo tanto, dai, c'è qualcun altro che io non sento? No, non c'è nessuno, era acceso, era a computer, ho sentito questa voce e mi sono avvicinato, ma non c'è nessuno. Forse è presto, Giovanni. Ecco, caspita, le 5 e un quarto passate, ancora presto. E tu Giomari, come ti anda? Salute, sogni, eh? Già, si tira avanti, rattoppando e andando avanti. Insomma, per essere peggio, meglio così, dai. Ce ne sono che stanno veramente male, io grazie a Dio ancora. Cammino e tranquillo, dai, qualche acciacco già c'è, però si tira avanti alla bella meglio, E dimmi, e voi come state? Mamma è sempre con quelle gambe messe male, in attesa di operazione. Io, sì, qualche acciacchetto, niente di grave, però io sono molto lamentoso, Gio Maria, capito? Molto lamentoso, mi lamento anche per fesserie. Niente di brutto, dai. L'importante è tirare avanti, dai. E anch'io, ero una settimana a letto con questa influenza, una settimana e ancora non è calmata, però sta andando e migliorando, per cui gli acciacchi a questa età ci sono, per cui non è che possiamo migliorare, però cosa vuoi farci? Toppiamo, tiriamo avanti, capito? Ma purtroppo è così, le tacce, i malanni ci sono e per cui riescono fuori tutta questa età, capito? Ha copiato l'altro. Ehi, Giomari, scusa che c'ho lo spinotto che balla, non tocca e non tocca, dai. E mi era sparita la ricezione. Ehi, d'accordo, ma dai. Saluta Liu, dai, ci sentiamo male, che so che mi ha una cosa colpita, dai. Eventualmente sentiamo più tardi, se Dio vuole. Ok, buona passeggiata, dai. A più tardi, o alle prossime. Ciao, ma. Ciao Maria, anche lui mi chiede di voi, mi dice, ma lo risente, manda i saluti, ok? Ciao, buona serata. Ok, ciao. C'è qualcun altro in PMR per un controllino? Allo, qualcuno in PMR, troppo presto. Attenzione Marino, Sacchisio! Attenzione gigante, Tore! Era ora, buonasera! Buonasera a lei, ben alzato! Già sono un'ora che sono Guggiamendi, e te risponde nessuno! Ah, veramente non ascolto e tu lo stai chiamando, ma con chi stai parlando? Col cielo! Con nessuno, che non rispondi a nessuno! Certo! Vuol dire, non c'è nessuno, fiorellino! Maestro Tore, così è! E allora, tutto a posto, Giuseppe? Sì, andai a posto. Pensavo che fosse da maniera, mi sa ruduto. E che arrivederci. Dai, senza adesso sta già chiudendo, come mai? Che mi so che ti offendi. Non v'è più nessuno, non entra più nessuno. Così è. Tone, mandami la foto con l'apparecchio che c'hai. Che utilizzi. Quello che sta venuto il nostro amico. Lo voglio vedere come, che modello è. Ma quale apparecchio? Oh, certo, Gio Maria, voglio vedere il tipo. Ma quello... là? Sì, quello che è quello là, sì. Mandami la foto su WhatsApp. Ti mando la foto. Ce l'hai davanti, no? Cosa? Aspetta, che guardo per se ce l'ho nel telefonino. Ma non lo stai utilizzando perché? Se va bene con Kissu. Ah, hai aggiunto, ma... E quello sta ascoltando, già. Dai, dai, controllo se c'è il cellulare. Attenzione gigante. Buonasera. Sì, buonasera Gian Marino. Buonasera anche a Marino. Cosa è successo? Cosa è successo a che ti puoi vendere tutto? Tutto si sta vendendo, Gio Maria, buonasera. Tutto quanto. Gli ho detto a Torri, mandami la foto di quella di quell'apparecchio che hai dato tu, capito? Vediamo se mi innamoro un po' anch'io. No, a vendere non vendo nulla. Ha detto che tengo tutto il sudato. Ah! Vale sempre che ci siamo tu. Ho visto che anche tu qualche volta ti assenti, capito? E così succede anche a noi, no? Ogni tanto. O per impegni, o per questo, o per quell'altro, capita anche le serate buiosa, così è Marino. Esatto, guarda, io sto, non ti dico male, io fino adesso stavo sistemando delle cose che ci avevano quindi fatto. Ho terminato adesso, ho detto, poi ci accendo 10 minuti, purtroppo molte cose vogliono fatte. Se lascio oggi le faccio, oggi non le faccio, domani le faccio, divento un dettaglio. Dunque bisogna prima il lavoro e poi il piacere. Questo è un hobby, Tito, è un hobby. Purtroppo c'è i giorni che non puoi entrare, i giorni che entri. Avanti, Tito. Non sto dicendo nulla io per questo. Che sono da Rigetti che sono già vendi e non risponde nessuno. Ecco cos'hai. Non è a quello che me ne ha fatto nulla. Se entri a Rigetti in mezzo, se non ventri bannunda. Ognuno ha i suoi impegni, te lo sai, Tito. Purtroppo ci sono giorni che si può entrare alle 5, alle 6. Magari se viene gente devi mollare per forza, non puoi lasciare la gente come gli altri. A me molte volte viene mio cognato, logicamente devo lasciare perché non posso lasciarlo come gli altri, capito? Come succede a me, come può succedere a te, a Gio Maria e compagni. Avanti Gio Maria. Ma infatti certe sere ci sono degli impegni e uno non può entrare, come fa? Capito? Adesso per esempio io era acceso sempre, però c'era il volume abbassato perché stavo parlando in verticale qua e magari ha chiamato e io non l'ho sentito, però era tutto acceso qua. Forse anche quello, capita anche queste cose, oppure magari qualche volta si più lontano, non lo senti chiamare, oppure magari non c'è anche. Anche queste cose succedono, però quando c'è uno risponde, quando non c'è pazienza, cosa ci puoi fare? Già mangiamo ugualmente, to. Ah, si può. Sì, vedi com'è la pazienza. Ma chi era sempre impegnato, era in campagna, è salito adesso, appena è arrivato a casa ha acceso l'apparecchio. Vedi com'è, to. Avanti, signor Marchi, buonasera. Buonasera, Gian Maria, buonasera anche a Torre e a Marino. No, stavo leggendo le favole alla nipote. Prima ho letto un pezzo del favola di Topolino, poi mi ha detto, leggimi un pezzo di Pinocchio. E stavo leggendo le favole di Pinocchio. Capito, Gian Maria, anche quello bisogna fare. Torre si sarà lamentato, gatto. Dice che spegneva tutto e tanto non risponde nessuno, dalle 7 dice che sta chiamando. Magari alle 7 chiamiamo anche noi qualche volta e lui non risponde. No, ma insomma. Ma tipo un piombo dopo. No, passo passo sei, sì, come mai? Ieri arrivavo e tutto sparato, oggi sei piccolino. E chi io? Adesso già ti ho sentito. Capito? Ero impegnato, Marini, non potevo lasciare mia nipotina sola. Stavo leggendo le favole, ga. Hai fatto bene, Bacchi, hai fatto non bene, benissimo. Prima il dovere era per piacere, Bacchi. Purtroppo è così. Ma perché a me, quando devo andare in casa, mi chiami mio nipote, prendo scappo e ciccia. Avanti, Tore. Sì, hai fatto bene, Bacchi. Oh, a raccontare le favoline. Chiata, e noi paghiamo, no? Un bel di voce, lasciamo il bongo buru. Ma la barba, secondo me, ho visto in minore, a leggere le favole di Pinocchio, ga. Gli piace quando leggi quelle di Pinocchio, si può arredire, dice, secondo me è vero, e io ho detto, esistevo, era così. Vittorio è bravo con la frattura di Pinocchio, vero tu? Anche tu non sei bravo. Io sono bravissimo. Avanti, va, Giovanni, ti mando una foto, Bacchi, di Pinocchio, che una signora mi ha regalato, una signora, un negozio che ha chiuso, ti ho detto stamattina, no? In quella zona mia, e mi ha dato quattro cose di Pinocchio, da più grande, se non sbaglio, è 80 centimetri, tutto in legno, da 80 scende. Avanti, Gio Maria. Infatti, ma chi c'è? Ecco perché l'ho ritratto, perché c'è quella nipotina che gli stava cantando la linea nanna, così è, ma chi? Vai bene, fai bene, prima e dopo per piacere. Hai il baracchino, ce n'è tempo, a Puglia. E cosa vuoi fare? C'è anche quello che bisogna fare. Tore non ce l'ha queste possibilità di cantare la canzoncina alle nipoti piccoli. Che l'ha detto? Lo faccio un bene voce, lo faccio. Oh, visto là, e allora non ti lamentare, Tore, non ti lamentare. Che tutto va bene, quando ci siamo chiacchieriamo, quando no, pazienza, vuol dire faremo un'altra cosa, vai Marie. Oggi mi sta dicendo, tu la stura è Pinocchio, la sai? Chiacchia a voi, nulla. Mattone, stasera ci sono presto perché non sapevo niente da fare, quando lo chiami tu non ti risponde mai, ore e ore stai a chiamarlo, non ti risponde. Ma lo sa alle 7, prima alle 7 e dopo le 7 lo chiamo e non mi risponde. Magari dopo quando non chiami chiama lui. Ma succedono anche queste cose, ma chi? Però già c'è la pazienza di aspettare, vero Tò? Sì, già c'è la pazienza di aspettare. Se non io non si stufa. Ho visto un altro scavo nuovo che hanno fatto, le belline, l'hai visto? Dell'acqua, da nuova. Accendi il ventilatore. Cos'è Bacchì? Accendere il condizionatore. No, dice, si stufa. E se adesso non gli piace la stufa, accende il ventilatore. Io so già acceso. Andiamo bene, andiamo. Bobo. E vi ragioni tu a voi, tutti e due, e voi no? No, accendi di la stufa, no. Ti stavo dicendo, Tore, bravo, tu la storia del Pinocchio, la sai? No, me la devi raccontare tu. Domani te la racconto io, adesso sono in Puglia che stavo, ero impegnato e mi sono stancato un po'. Domani te la racconto, dai. Mi Bacchì è bravo, raccontando. Avanti, Bacchì. Ehi, no, tu eri impegnato, non eri impegnato, eri impregnato, eri, capito? E certe volte leggere anche a noi. A vedere un po' perché da uno all'altro cambia questione. Una volta per Geppetto e una volta per me. E così è Bacchino del vanno. Tore, sempre senza motore. Avanti Giovanni. Motore di Tore già sta camminando, è tranquillo pure, vero Tò? E gli arugredo. Certo, è potente burro, Vedo un po', meglio così Tò. Sempre allerta però, sempre allerta. Purtroppo sì, bisogna stare allerta. Mi, arrivare ma giubbaga brulù della macchina, quindi penso un poco. Questa macchina sì. No, ho detto che mi ho pagato il bollo della macchina. Ma stiamo pagando il bollo, qui sono soldi rubati, hai capito? Ma stiamo pagando, fregate. Tanto arrivi, ti arrivi Romattesi, con qualche cosa in più ma già ti arrivi. E tu quando arrivi appena a tagli, non ti ha levato nulla. Io sono andato il mese di luglio a pagare il pollo e non lo prendeva. Cazzo, strano, ho detto, siamo andati all'ufficio delle entrate e mi hanno detto, dice, ma lei ha pagato il bollo. Io ce l'ho, ma io non credevo, perché quando l'ho presa avevo 3 anni di incentivo, ma io non sapevo questo particolare, e io pagavo sempre in bolloga, a ti immagini. Dunque stai scalando adesso, così è Giovanni? Allora, ultimamente sono tornato a andare e non me l'ha accettato nemmeno. Allora mi ha detto, dice, adesso vi faccio il foglio io, mi ha fatto il foglio, come io l'avevo già pagato, mi ha spiegato tutto, che avevo preso la macchina con l'incentivo di 3 anni. Dice, lì adesso lo deve fare, dice, a gennaio il bollo. E infatti a gennaio sono andato, il 1° gennaio, e l'ho fatto il bollo, già me l'hanno accettato. Adesso sono tranquillo. E meno male, va bene, dai, purtroppo se non lo sa. Scusa, quando tu hai acquistato la macchina, quello che ti ha venduto la macchina, non ti ha detto nulla? Io anch'io quando ho preso la macchina, avevo 3 anni di bollo pagato, capito? Adesso da quest'anno mi toccava pagarlo, ma non è pago perché non è pago. Vero, Bacchi? Non so se mi ascoltate adesso, sono con l'antennino. Ma mi ascolti, Marì? Bacchi, zio. Marcello. Due volte sono andato, la prima volta alla vicinanza, quella mi ha fatto il foglio, dice, devi andare a pagare, dice, il mese di luglio o agosto, mi sembra. E invece non lo prendeva, così che dice, ma strano, ho provato la prima volta la macchina, poi all'altro non lo prendeva. Canta. Allora siamo tornati ad andare di nuovo all'ufficio delle entrate, c'era questa signora e mi ha detto tutto com'era, come non era, no? Io non lo sapevo, cazzo, che c'era questi 3 anni di incentivo che non dovevo pagare. E tutto lì, esatto, perché lo prendevo per quel motivo, capito? Perché avevo già pagato. Sì, perché c'era l'incentivo e non te l'accetta. In qualsiasi posto che vai, né all'ACI né tabacchino, non te l'accetta, perché te lo potevano dire loro direttamente quando andavi là, se non te l'accettava. Ecco cos'è. Invece nessuno ti ha detto nulla. E quello infatti non mi hanno detto niente, io insistevo ad darci, però se non mi spiegavo niente, me l'ha spiegato questa signora dell'ufficio delle entrate, me l'ha spiegato tutto, infatti mi ha rifatto il foglio, dice, adesso dice, mi faccio il foglio, dice, lei con questo foglio va a gennaio e fa il bollo, perché fino a gennaio lei ha pagato, e già ho fatto così, con questo foglio sono andato al tabacchino e già l'ha preso, per cui l'ho pagato. Meglio vai, avanti Bacchi, gigante. Aspetta che sta cantando la canzone alla nipote. Ah, ok, dai, torni avanti. Sì, hai fatto bene Gio Maria, hai fatto ruva. Così almeno adesso sei tranquillo, lei bagabbe e sei tranquillo. E oggi bagabbe le mani e sono tranquillo. E io ho pagato il bollo, ho pagato anche la tassa del baracchino. Così che è tutto a posto adesso, per quest'anno. Tutto pagato, addio soldi, addio pensione Gio Maria, così è. L'importante è che ci siano, Marì, quella è la cosa più bella, che ci siano. Il male è brutto quando ci sono per poterlo pagare. Grazie a te, a cielo, per cui sono tranquillo. Esatto, interessante che ci siano. E che ci siano i soldi, ci sia la salute soprattutto. Avanti, vediamo se Bacchisio è entrato. Bacchisio? Eccomi qua, è mancata la batteria. Me ne sono accorto, me ne sono accorto che sei caduto. Ok, hai attaccato nuovamente, sì. Ho cambiato radio, ho messo l'altro adesso, sempre un altro portatile. E sei andato, si è messo a dormire. Andiamo bene, andiamo, avanti, do. Sì, andiamo bene, andiamo. Vabbè, dai, io ne approfitto, risocciamenti. Ci sentiamo domani se tutto andrà bene, ok? Ciao a tutti, ciao Gio Maria, ciao Bacchisio, ciao Marino e statemi bene. Buona cena e tutto, ok? E sogni d'oro. Ciao Fiore, domani, mi hai sentito domani, salutone in casa. Ascolta, domani accendi verso le 6, alle 6 ti faccio sentire qualcosa. Dai. Avanti Gio Maria. Infatti, più tardi tu entra. Almeno sai che più tardi ti trovi. Okay. Comunque ciao, sentiamo, dai, buon proseguimento, sono tutto in casa. buonasera, a domani. Vai Bacchi. Ciao Tore, buona serata, buona cena, buon tutto, saluta la signora, a domani se la concilia ce la sentiamo ancora. Avanti Marie. E così è la faccenda, Bacchi, non me ne vanno. Tore, ricordi quella foto che ti ho detto e poi la sentiamo domani. Io ero fino a poc'anzi sistemando la roba, fino a poc'anzi, sono stanco molto. Vabbè, ormai è fatto e ciccia. Sempre vendi Bacchi. Lavora, lavora, chi non lavora non fa l'amore. Capito Marino, bisogna lavorare. Bisogna sempre fare qualcosa, se no uno si annoia e non anda male. Non è così Gian Marino. Ehi, ehi, Bacchi, infatti. Bisogna fare così. Lavora, Marino, lavora, lavora, cazzo. E noi lavoriamo sempre, non si chiede di lavorare anche tu. Se tu non lavori, la pensione loro ce la pagano, capito? Si che bisogna lavorare, è impresa Buru. Ciao Maria, ciao Bacchisio, ciao Marino, ciao, buonanotte. Allora, che a te lui, chiudete sta. Che lei, è così, è Giovanni. E così faccio, lavoro per pagare la pensione a voi. Giovanni mi sta arrivando con quella modulazione bella squillante, bella forte. Bene, Luca, avanti, con la buonasera. Sì, adagio Maria, devo prendermi il tram, capito? Devo salire a casa. A domani se Dio vuole. Ciao Marino, riprendi tu, ciao anche a Bacchisio, Tore, ciao Gio Maria, riprendi Marino, ciao. Ok, ciao Luca, grazie del saluto. Avanti Tobba, avanti Bacchisio per Luca. E io ciao Luca, buona serata, salutissimi. A risentirci a domani, buon rientro a casa. Avanti Gio Maria. Ehi, ehi, ciao, alle prossime, saluto in casa, a ti sentire, mi sembra che chiedo anch'io, sono già le 8, ma chi, dici che è già l'ora della papasera, per cui approfittiamo, a domani, stai coincide, buon presidente, saluto in casa, ma chi, ciao Maria, anche a te, riprende Maria, aspetto per il finale, dopo chiudo, ciao a tutti e due. Benissimo, riprendo io, c'è questa voce bella squillante, Gio Maria, mi sta esordando, bella forte la modulazione, mi sembra qualche persona che adesso non c'è più. Bene, ciao Gio Maria, ben sentito, saluto in casa, a domani se concilia, avanti Bacchisio. Ciao Gio Maria, buona serata, saluta la signora, buona cena, buon tutto, a domani se tu concilia ce la chiacchieriamo ancora. Marino, anch'io ti devo lasciare perché è arrivata l'ora anche per me, è arrivata quell'ora X e dunque bisogna andare. Ciao Marino, buona serata, saluto la signora, a sentirci domani, o ce la vediamo un po' cosa possiamo fare. Bacchisio, vi saluto ancora e auguro ancora buon questo a quelli che ci sono e buona cena quando la farete. Bacchisio, QRT. E di nuovo, ciao Bacchisio, ben sentito, a domani se concilia, se no già ci vediamo domani mattina, dai. Dove uscire presto, faccio una commissione e poi richiamo, già ci vediamo. E saluto in casa, benissimo, io rimango in quelli che si ascolto, in qualche stazione e poi chiudo. Ciao, ciao. Ciao Marino, ciao.